Parlavamo prima appunto di politiche di educazione, si parla di cultura, le leggi in Italia ci sono, potrebbero essere far rispettate di più, meglio sicuramente, ma non è quello il punto. Bisogna parlarne nei contesti culturali e soprattutto educativi di ogni ordine e grado. Noi ricordiamo che in Italia uno studente o una studentessa può superare tutti i livelli di istruzione, anche quelli più alti e specialistici, e non confrontarsi mai con problemi legati, con problematiche legate al genere, alla stereotipia, alla discriminazione, per non dire alla violenza di genere. E questo riguarda anche professionisti, percorsi formativi di avvocati, avvocate, medici e quant'altro. Invece le donne che si rivolgono a voi sono sempre le stesse o sono cambiate? Ci sono tante italiane, tante straniere? Allora, fondamentalmente, appunto dicevo, la proporzione resta sempre la stessa, sai, 2/3 di italiane e 1/3 di straniere. Per straniere appunto si intende tutto l'universo che è di nazionalità che abita il nostro territorio, quindi come uno specchio preciso della presenza sul territorio e quindi anche della presenza di violenza, perché non c'è un contesto culturale esente, quindi assolutamente. Quello che possiamo dire in questi 28, quasi 29 anni di esperienza è che cose trasversali alle nazionalità è che si sono accorciate le storie di violenza, cioè a dire le donne chiedono aiuto prima, quindi non sono più i 10-15 anni di rapporto violento, ma scendiamo sotto i 5 anni, e quindi vuol dire che sicuramente ci sono germi di consapevolezza, vuol dire che appunto quello che dicevo, le azioni culturali cambiano veramente la percezione delle cose in maniera collettiva e anche in maniera individuale, quindi anche a riconoscere di subire violenza, diciamo così, prima. C'è anche una differenza sociale, culturale, si è ampliata un po' la richiesta? Ma guarda, ti dico, è una richiesta che si è ampliata in numero assoluto, ma è sempre stata una richiesta assolutamente trasversale, a seconda delle domande che si fanno, okay. No? E per questo caso, per domande ti intendevo appunto le politiche di sensibilizzazione, le campagne, l'informazione, quindi andando a stimolare determinati contesti piuttosto che altri, si ha questo genere di risposte.